Prova? Ok. Allora, prima dello svolgimento di questo disco, volevo dire che il disco che state ascoltando non è un disco hip hop, perché io non vengo dalla strada, non dico io, non mi vesto largo, non sono un pessimista e non vivo una situazione familiare disagiata. Quindi volevo dire che io non pratico il pop, non sono un fanatico del genere. Ora ci citatemi subito. Fra meandri psicologici la gente si ripone, per nome, cognome, stato, nazione, classificazione in base ad un annuario, un diario, un vestiario utilizzato in quella fase particolare dove circolano maschere, dove si muovono in zone automatiche, sembrate automia, fasi meccaniche, quando vi vedo non faccio altro che ridere, posti prefissati e quasi elitari, dominano canoni, mappe concettuali, norme etico-morali, da crederci per fede, se incensurato rappresenta la fece, scomparti vitali dove devi collocarti, gallerie d'arte dove apporre i tuoi ritratti, tipologie di generi per collocar cervelli, vuoi ripararti, scegli bene i tuoi ombrelli, sei un bullone, grosso ingranaggio, villaggio selvaggio, avente posizione, spazio personale in un cazzo di balù, demone al servizio del mondano Belzebù, nessuno ti giudica, nessuno è critico, sono io il critico perché sono analitico, sembro lucignolo per la mia perfidia, ma ho visto gente lacerata dall'invidia. Non pratico hip hop, fighetto, sono scassinatore. Non pratico metal, chiamami disertore. Concezioni ambigue, ne sono l'inventore. Così eclettico che supero Cicerone. La mia posizione ti fa andare in tilt, perché sono un mix d'ogni frazione. Voi siete la foto, io sono la cornice, e siete collegati da un'arma distruttrice che coprite col velo della coerenza, così sottile che evidenzia la demenza, oppure la chiusura ermetica, arsura mentale, che è vostra tipica struttura. Il vostro fanatismo, i vostri canoni rigidi, copioni mimetici o mimici di mitici, li guardo da una visione verticale, dall'alto del mio sguardo vi vedo messi male. Cosa c'è da fare con sto idioma aulico per ridare sarcastico rap anticlassico? Giudicalo, smontalo, tanto ti capisco, sarò messo da parte, accetto questo rischio. Giudicalo, smontalo, tanto ti capisco, sarò messo da parte, accetto questo rischio. Non pratico hip hop, fighetto, sono scassinatore. Non pratico metal, chiamami disertore. Concezioni ambigue, ne sono l'inventore. Così eclettico che supero Cicerone. Schemi mobili, carenze ignobili, temi fragili con tendenze duttili, fratelli militari, tutti in divisa, pietre miliari in cappelle di ghisa, esercito pronto, cogita, nuovo scontro, bomba atomica, esercito, ora si agita, fabbrica armi, veleni dalla bocca, mastica salmi dalla Bibbia che porta, musica cosmatica è ciò che professo, vero zero origine, critico pratica, ruggine che ossida, le note sono note poche, innovazioni ma nozioni senza nome. Come Jacopone, il rap è la mia todi, il nuovo modo ignoto seguito da pochi, nell'oligarchia letteraria, autocrazia, antiagraria, nobile, aristocrazia di ricchi picchi, di cultura flebile, contro l'astura di frasari spicci, state nei granai, voi massicci e potenti, io colto e sordo, voi semplici e pesanti, fake, falsi break, apparsi negli space, tutti distrutti come Dorian Gray, dall'indifferenza del mio egotismo, essenza e centrismo della mia partenza, dall'indifferenza del mio egotismo, essenza e centrismo della mia partenza. Non pratico hip hop, fighetto, sono scassinatore. Non pratico metal, chiamami disertore. Concezioni ambigue, ne sono l'inventore. Così eclettico che supero Cicerone.